per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che ho viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che ho viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.